Respiro. Buongiorno da Cristina Carpinelli, benvenuti a Respiro. Respiro è la trasmissione di Radio 24 dedicata ai temi dell'ambiente e dell'ecologia. Questa settimana parliamo di città ecosostenibili, di architetti convertiti completamente alla ecoarchitettura. Ovviamente parlando di città ecosostenibili non potevamo fare a meno di tornare a parlare di Ecopolis, ovvero il summit dedicato al tema della città, dell'ambiente urbano, della sostenibilità, che si svolgerà a Roma dall'1 al 3 aprile e che Respiro seguirà con attenzione. Ma ora partiamo dalla città e ci siamo chiesti: può esistere una città interamente pensata per essere a impatto zero? Per darvi questa risposta dobbiamo andare a Dongtang, ovvero la città cinese che sta per nascere davvero a impatto zero. Sorgerà entro il 2040 sull'isola di Chongming, vicino a Shanghai. Sarà abitata da circa 80.000 persone. A Dongtang tutto sarà raggiungibile in 7 minuti a piedi da ogni fermata dell'autobus, mentre ampie zone verdi contribuiranno a riequilibrare le emissioni di CO2. In città potranno circolare solo veicoli elettrici oppure a idrogeno. Dall'acqua piovana ai rifiuti, ridotti dell'83%, quasi tutto sarà riciclato. In città non sono previste discariche e persino le deiezioni umane saranno impiegate nel compostaggio, nell'irrigazione e recuperate come energia per la produzione di biogas, mentre il resto dei fabbisogni energetici cittadini sarà coperto da un parco eolico. Allora noi oggi abbiamo qui l'architetto che l'ha pensata. Buongiorno ad Alejandro Gutierrez. E la prima domanda che mi viene da rivolgerle è: perché la Cina, cioè una potenza in crescita che sembrava non avere particolari attenzioni per l'ambiente, invece decide di dare vita a una città come Dongtang? Non c'è nessun posto, credo io, nella Terra dove sia più evidente i livelli di contaminazione e mancanza di risorse naturali così come l'acqua e l'aria, che è nella Cina. Per cui a me non mi sembra neanche un po' strano che loro, avendolo così di fronte a loro e essendo già presi da questo, che abbiano preso delle idee per sviluppare dei progetti e delle soluzioni verso l'ambiente che siano importanti. Entriamo proprio nel merito del progetto. Ci spiega come farà la città di Dongtang a non avere impatto sull'ambiente? Guardi, il progetto di Dongtang è uno dei tanti progetti nel mondo, tanto in Inghilterra come in Cina, come in America. In generale i progetti, quello che vogliono fare è modificare strutturalmente il comportamento dei processi nella città, da un processo lineare in cui per esempio l'acqua entra nella città, è usata e dopo è buttata, diciamo, senza tanti trattamenti, e allora si genera un processo lineare di inquinamento, o lo stesso con i rifiuti urbani, a un processo circolare in cui la città diventa un organismo più metabolico, in cui tutte le risorse che entrano nella città sono riutilizzati in modo di generare impatti più bassi di quelli che genera una città convenzionale come quelle che conosciamo oggi. Allora, in particolare Dongtang, quello che fa in modo come dimostrazione è che una popolazione di 80.000 abitanti nella prima fase può usare solamente delle energie rinnovabili per tutti i fabbisogni energetici che ha una città, sia dell'elettricità come del riscaldamento e anche dei trasporti. E questo direi che è la cosa più fondamentale, che una città moderna può essere, diciamo, alimentata da energia rinnovabile per tutti i suoi fabbisogni. E poi c'è la questione dei rifiuti. Come lei può immaginare, a noi interessa molto, insomma, questo argomento. Come avete risolto la questione dei rifiuti? Allora, non è che il tema dei rifiuti si può risolvere prendendo la spazzatura che abbiamo oggi a casa e facendola sparire. Quello che c'è bisogno è una strategia di ridurre la quantità di rifiuti che si producono, usando il concetto del designing out, dal punto di vista progettuale, per esempio il packaging di un prodotto con le minore quantità di packaging possibile, e che quei packaging siano per esempio biodegradabili. All'inizio della catena della produzione si comincia a capire già quali sono gli impatti nel sistema dei rifiuti di un oggetto, sia un telefonino, sia la pasta, sia il packaging dei fagioli, sia qualsiasi cosa, no? E dopo viene il processo di capire che all'interno di una casa devono essere separate, come succede tanto in Italia già, i rifiuti plastici, di quelli organici, di quelli di vetro e così, no? Allora così si può andare avanti e prendere quelle risorse e usarli come per riciclaggio dentro la città, perché sono già separate. Allora, quello che il progetto propone è di, nella sua fase finale, riciclare dall'ordine di un 90% dei rifiuti urbani domiciliari dentro la città. Poi ci sono i rifiuti organici, come li... I rifiuti organici si possono usare per tante cose. Uno per digestione anaerobica, per generare biogas. Un altro modo è usarli per generare concime, per migliorare la qualità del suolo, per l'agricoltura. Ecco, per quanto riguarda l'energia... L'energia non è possibile oggi, con le tecnologie di oggi, di poter generare, diciamo, tutta l'energia che ha bisogno un palazzo nello stesso palazzo. Si può generare una percentuale, sia il 10, il 15, il 20%, però quello mancante deve venire da una struttura maggiore, diciamo, un'infrastruttura maggiore. E quella infrastruttura maggiore in questo caso è una pianta di energia che utilizza la buccia del riso come il suo fuel, come il suo combustibile. Questo è molto sostenibile dal punto di vista che genera un concetto di neutralità sull'uso del carbonio, no? Dell'anidride carbonica, perché la buccia del riso proviene da una pianta che è il riso, che cattura il CO2 come tutte le altre piante, e dopo quello che cattura lo brucia, e allora è un ciclo chiuso. E poi ci sono le auto, comunque i mezzi di trasporto che saranno anche in questo caso elettrici. Come funzionerà, insomma, muoversi all'interno di Dongtang, come sarà? E muoversi all'interno di Dongtang sarà molto facile, perché è una città piccola come tante città italiane, per cui di 80.000 abitanti, e una densità molto simile a quella delle città italiane, per cui non ci sarà bisogno tanto di usare i mezzi di trasporti, diciamo, più che la bicicletta e il piede e la camminata, no? Quando c'è bisogno di usare la macchina o di andare in autobus, ci saranno delle macchine, degli autobus a zero emissioni, che saranno anche alimentati da energia da questa pianta di biomassa che viene dalla buccia del riso, no? Per cui è veramente, diciamo, un sistema di trasporto carbon neutral. Senta, una città così è costata tanto più di quanto sarebbe costata una città canonica? Dal punto di vista della sua pianificazione, del suo design, ha tanti elementi che sono meno costosi di una città canonica. E gli do un esempio molto semplice: la quantità di strade, diciamo, chilometri lineari di strada che ci sono in questa città rispetto a una città canonica sono meno, per cui quello è un item dentro al budget del progetto che è minore. Dal punto di vista dell'energia, che è uno degli item, degli elementi più, diciamo, diversi da una città canonica, perché questa città si provvede della sua propria energia attraverso questa pianta di biomassa, non aggiunge nessun costo al progetto immobiliare, perché è un business indipendente. Cosa intendo per questo? Questa pianta genera una certa quantità di energia che è l'equivalente a quello che la città ha bisogno, però questa pianta vende l'energia al sistema, diciamo, di infrastruttura centrale di questa regione di Shanghai. Però vorrei chiarire basicamente che quando uno pensa e pianifica molto bene e molto integratamente queste iniziative, non è necessariamente più costoso, non è necessariamente meno economico, anzi certe volte è molto più efficiente in tutti i sensi, dal punto di vista delle risorse naturali tanto come dal punto di vista delle risorse economiche. Senta, architetto, un progetto del genere si può immaginare solo su una città che sta per essere costruita ex novo, o si può pensare di intervenire anche in contesti urbani già strutturati? Direi che le problematiche sono diverse, però l'obiettivo si può raggiungere lo stesso. Le problematiche in una città sono ovviamente molto diverse, in una città esistente sono ovviamente molto diverse, ma ci sono degli esempi fantastici. Per esempio, adesso a Londra si sta facendo un piano in cui loro vogliono ridurre le loro emissioni, l'emissione della città, da un 60% al 2020. Una delle strategie, diciamo, importanti per questo è una power plant esistente a Londra, che è antica, diciamo, che genera energia a gas. Cioè, quando si brucia il gas si genera tanto più calore di quello che si genera elettricità. Quel calore oggi è disperso nell'acqua, nel Tamigi, invece di essere utilizzato per riscaldare le case o raffreddare le case attraverso un sistema molto semplice di assorzione del caldo, no? E allora quello che si sta facendo è di stabilire un network di riscaldamento a livello di distretti urbani intorno a questa power station, che prenderà il caldo da quella power station e lo farà, lo metterà in tubi e lo porterà attraverso la città per alimentare di riscaldamento dell'ordine di 120.000 unità abitative. Questo tra l'altro noi l'avevamo affrontato la settimana scorsa anche con Roma, perché Roma sotto il Tevere ha energia calda, cioè un fiume caldo che scorre e produce energia geotermica che potrebbe essere utilizzata, e mi sembra anche che Reykjavik già lo faccia. Reykjavik è il migliore esempio, sì. Il caso di Londra è una pianta di generazione elettrica che va a gas, che è a Londra dal 1960 e si sta ristrutturando, diciamo, per poter prendere tutto il caldo che oggi butta al fiume in tubi e spargerlo per la città, diciamo. Un'intervista dunque che ci permette di guardare al futuro con uno slancio diverso. Dongtan avrà un impatto ambientale praticamente nullo, il fabbisogno energetico sarà ridotto drasticamente, il 66% in meno di una città tradizionale, si impiegheranno, come avete sentito, solo energie rinnovabili per gli edifici e trasporti locali, evitando così di produrre 350.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno. Di ecoarchitettura si occuperà anche Ecopolis, la fiera sulla sostenibilità che si svolgerà a Roma dall'1 al 3 aprile, come ci racconta Luisa Ridori, Exhibition Manager di Ecopolis. Sentiamo. Pensiamo che appunto il tema della sostenibilità, che oggi, come dire, riempie i giornali, tutti ne parlano, non abbia ancora trovato nel mondo, almeno fieristico, un appuntamento, come dire, di tutto rispetto. Noi abbiamo voluto lavorare proprio su questi temi e rendere questo appuntamento un aspetto anche fisico, se vogliamo. Ci può spiegare come si struttura Ecopolis, che ricordiamo si svolge a Roma dall'1 al 3 aprile? Allora, il tema, diciamo, intorno a cui ruota la manifestazione è il tema dell'ambiente, chiaramente. La declinazione che abbiamo voluto apportare a questo tema, differenziandoci anche, se vogliamo, dalle altre manifestazioni fieristiche, che sono per la più manifestazioni di carattere molto verticale e settoriale, è invece un taglio trasversale, orizzontale, che riprenda tutti i settori che compongono insieme l'ambiente. Questi settori sono l'energia, i trasporti, cioè la mobilità sostenibile, i rifiuti, l'ambiente, la salubrità urbana, e c'è poi un settore ulteriormente trasversale che è quello della governance. L'appuntamento, diciamo, che cosa, come si caratterizza? Si caratterizza sostanzialmente per un incontro tra le imprese, che a nostro avviso sono le portatrici dell'innovazione, di nuovi prodotti, di tecnologie, e dall'altra parte invece le pubbliche amministrazioni, che diventano il volano, se vogliamo, proprio per utilizzare queste nuove tecnologie e quindi, come dire, rendere poi le tecnologie per l'ambiente appunto utilizzabili. Respiro. Buongiorno e bentornati a Respiro. Nella prima parte vi abbiamo portato a Dongtan per dimostrarvi che un'intera città a impatto zero è non solo possibile ma anche in fase di costruzione. Vivere dunque a impatto zero è un obiettivo che oggi passa anche, se non soprattutto, attraverso il ripensamento della città. Anche perché l'edilizia da sola è responsabile di circa il 40% delle emissioni di CO2. Per questo in tutto il mondo studi di architettura, amministrazioni pubbliche si stanno sfidando a colpi di ecocittà ed ecoquartieri. A Milano, ad esempio, nell'ambito delle costruzioni che si stanno realizzando per l'Expo, ci sono progetti di architettura che tentano di perseguire questo obiettivo, cioè impattare il meno possibile sull'ambiente creando nuovi palazzi. Se ne occupa Giuseppe Tortato, un architetto che sta lavorando alla costruzione del primo Green Business Hotel a Milano. Un hotel che per la particolare conformazione crea delle sorte di tagli tridimensionali all'interno della struttura, per cui dei grossi vuoti che vengono utilizzati per far crescere delle piante, degli alberi, e con delle passerelle che tagliano questi spazi vuoti si creano dei luoghi all'interno del verde, quindi sospesi nel vuoto, in cui queste persone possono anche lavorare, nel senso che sono spazi cablati con tutte le tecnologie necessarie per poter anche lavorare, ma il tema su cui noi abbiamo comunque lavorato, ma non solo su questo progetto ma da un po' di anni, è di creare comunque strutture a impatto zero. Ma impatto zero di un edificio attualmente significa soprattutto non produrre inquinamento, mentre è evidente ancora che per costruire un edificio, comunque per la gestione naturale, per l'elettricità in sostanza, io ho bisogno di produrla, però un edificio pensato per attenuare anche l'impatto o comunque l'utilizzo di energie quali l'elettricità contribuisce anche a diminuire l'inquinamento. Quindi anche spesso si sente parlare di edifici classe A, ma tante volte non si sa che per creare un edificio classe A c'è la necessità di spendere parecchi soldi, consumare parecchi tonnellate magari di combustibili per produrre i materiali ecologici. Sembra paradossale, ma è così. Quindi spesso ci si vanta di un prodotto e poi in realtà si è stati più inquinatori nell'avere un edificio di classe A che non averlo. E quindi noi cerchiamo... qual è l'alternativa? Ma, diciamo? Quindi l'alternativa è analizzare nello specifico il luogo dove si va a costruire. Quindi se io sono a Milano o in Sardegna o in Sicilia, io posso avere un approccio completamente diverso alla progettazione, quindi non ce n'è uno corretto ovunque, c'è un progetto adatto ad un luogo. È possibile pensare a quartieri interi a impatto zero, cioè con case che addirittura producano più energia di quanta ne consumano, con il riciclo totale delle acque reflue, mi viene in mente, non so, con delle pale eoliche nelle strade, cioè certo. Questo futuro è così lontano o ci siamo quasi? No, noi lo vediamo e effettivamente la dimensione dell'intervento facilita l'approccio. È chiaro che se io devo fare un edificio a due piani ecocompatibile o con consumo zero a Milano ha poco senso, ma se io vado a costruire tutto un sistema che funziona è assolutamente la direzione verso cui lavoriamo. E adesso, a parte il Green Business Hotel, ma altri interventi che stiamo facendo a Milano di dimensioni un po' maggiori cercano proprio di seguire questo approccio. Il singolo caso, la singola casa non risolve molto ed è proprio frutto di una strategia che deve essere ovviamente anche legata al pubblico, perché al pubblico nel senso alle scelte di pianificazione anche urbana di un comune, perché scelte comunque di questo tipo vanno in qualche modo supportate ed incoraggiate. Costruire un hotel, una casa, ma anche sforzarsi di vivere a impatto zero. Ognuno di noi è chiamato a fare questo sforzo. E allora chiudiamo questa puntata di Respiro raccontandovi una storia che da piccola è diventata, direi, grandiosa, perché è una storia d'amore tra l'uomo e la natura. Tutto ha inizio in un momento in cui di ambiente si parlava poco. Siamo a Varese Ligure, siamo alla fine degli anni 90. L'allora sindaco Maurizio Carnazza, un DC radiato dal partito perché aveva portato i comunisti in giunta, si mette in testa che il suo piccolo paese deve diventare il fiore all'occhiello d'Italia per gestione dell'ambiente e per basso impatto. Così il piccolo borgo appenninico tra Parma e La Spezia comincia la sua rivoluzione. Tutti si mettono al lavoro e non è difficile chiedere ai vecchi contadini di fare come hanno sempre fatto, cioè consumare poco. La cosa più difficile è convincere i pochi giovani che ancora non hanno abbandonato il borgo a convertirsi a questa piccola rivoluzione. Eppure succede il miracolo e in meno di 10 anni Varese Ligure diventa il paese più ecologico d'Europa. Oggi i mulini a vento e i pannelli solari producono l'energia e addirittura se ne produce talmente tanta che il comune di Varese Ligure ne rivende una parte all'Enel. Il 95% delle aziende agricole del comune ha certificazione biologica, i campi non conoscono pesticidi né OGM, il bestiame alimentato con foraggio a mangimi bio. Il sindaco oggi è una donna di 45 anni, si chiama Michela Marcone e ci dice una cosa semplice. Ebbene, noi siamo riusciti a trasformare un punto che generalmente è considerato di debolezza, quindi la mancanza di fabbriche, la mancanza di potenzialità, sembrava mancanza di potenzialità che poteva avere il territorio, siamo riusciti a trasformarlo invece in un punto di vantaggio, una risorsa. Quindi l'ambiente come risorsa generalmente viene visto come un costo, invece noi abbiamo trasformato l'ambiente in una risorsa e averlo integro, perché per anni non siamo stati, nessuno è stato interessato al nostro territorio, questo questo ci ha permesso di avere un ambiente integro, ambientalmente a posto, e noi abbiamo puntato quindi su questo, con l'utilizzo delle fonti rinnovabili, con la certificazione ambientale, e siamo stati il primo comune in Europa ad ottenerlo, sia l'ISO 14001 che la certificazione EMAS. Questo ci ha dato ovviamente visibilità, ma nello stesso tempo ci ha imposto a tutta l'amministrazione comunale una serie di procedure che testimoniano la corretta gestione dell'ambiente, ma sono anche salvaguardia futura, insomma, perché se, ovviamente uno se gestisce correttamente oggi si ritroverà anche domani un territorio in buono stato. In questi tempi di crisi, Sindaco, cosa sta succedendo a Varese Ligure? Cioè, quanto sta ripagando l'investimento che avete fatto sull'ambiente? Ma io direi in maniera significativa, e le faccio un esempio che proprio questa mattina mi hanno confermato. Le aziende agricole che sono presenti sul nostro territorio sono certificate per la quasi totalità col metodo biologico, quindi noi abbiamo produzioni biologiche. Mi dicevano questa mattina appunto il presidente della cooperativa che gestisce il mattatoio e la rivendita della carne, mi diceva che sia gennaio che febbraio hanno avuto un incremento in percentuale di vendite molto alto, quindi ecco, anche in tempi di crisi evidentemente la qualità paga. Qual è la cosa di cui lei, in quanto sindaco di Varese Ligure, va più fiera? Ma certamente il fatto di dimostrare, ecco, che con le politiche che non sono state fatte, non solo c'è stato uno sviluppo sostenibile, ma lo sviluppo direi che è sostenitore, perché sostiene l'economia della valle, quindi aver messo qualche puntello, ecco, perché che sostenga, che possa sostenere tutta l'economia di un territorio che comunque rimane fragile, come fragili sono generalmente i territori di montagna, i territori marginali. Ecco, noi forse qualche puntello in più ce l'abbiamo, anzi direi senza forse, i puntelli ce l'abbiamo messi, ecco. E così Varese Ligure ha dimostrato che con il rispetto dell'ambiente si può anche ripartire da zero e trasformare un centro in via d'abbandono in un suggestivo borgo medievale restaurato e in un centro agricolo così ecoproduttivo da esportare prodotti in tutta Italia. Con questa storia si conclude la puntata di Respiro di questa settimana. Io ricordo a tutti che potete ritrovarci online sul sito di Radio 24 e che potete comunicare con noi all'indirizzo respiro@radio24.it.